Oh, baby, don't. Oh, baby, don't. Oh, baby, don't. Piccina così, un gioco eri tu, un semplice flirt e nulla di più. Ti volli baciare, ma senza calore e senza un perché. Tu fosti per me giocattolo fragile di una dolce baby doll. Poi tutto cambiò, mi avvinse il tuo amore per farmi sognare, per farmi soffrire. Ed io fui per te quel gioco che un dì per me fosti tu e nulla di più. Fu il gioco più facile di una dolce bebido. Più facile. Oh.